Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Via, invia, blasta, blasta, invia, invia. Buonasera, sì. Napalm. No. Eh? Anzi, sì. Sono in dubbio se iscrivermi al gruppo di Facebook. Quale? Tutti quelli che sono contro i gruppi di Facebook. Esiste? Ah, non sapevo. Mi sa di perdita di tempo. Bravo, infatti. Certo che la rete non è per gente che non ha una minchia da fare. Sì. Ora li sistemo io e creo il gruppo. Quale? Gruppo. Contro quelli del gruppo, no, contro i gruppi su Facebook. Ma lasci stare, ma vada fuori. Non sanno con chi hanno a che fare. Io non ci casco. Ma quale lobby? Ti fanno andare lì, ti dicono ci interessa il tuo parere. Ma no. Ti fanno barrare una casella. Quello sì. E poi ti ritrovi che hai comprato a rate. Abbiamo la possibilità di osservare una dimensione parallela rispetto a quella che viviamo ogni giorno con le nostre relazioni sociali basate sulla verifica dei nostri sensi fisici, che è quella della dimensione che passa attraverso le nostre protesi emotive, che sono poi i nostri smartphone, la dimensione dei social. La dimensione dei social è un grande universo democratico, almeno all'apparenza, in cui tutti hanno la loro ragione di esistere, i personaggi noti, i personaggi famosi, i personaggi che sono creati una fama attraverso i social, e le persone che banalmente non hanno la facoltà, la possibilità, la gioia, il privilegio di essere persone note, che cercano disperatamente una loro notorietà attraverso gli strumenti ormai messi a disposizione di tutti. Si sta creando però una situazione abbastanza paradossale. Io leggo questa mattina che all'attenzione del governo un impegno per provvedere rispetto alle pubblicità occulte che fanno gli influencer nei social network. Vabbè, lo scoprite adesso che le candide signorine smutandate su Instagram in realtà fanno la pubblicità a quelle mutande, non tanto a quello che ci sia sotto, che i tatuati e palestrati signori hanno sempre degli occhiali specchiati, perché quella marca di occhiali probabilmente ha molto interesse che loro si presentino spesso in rete, ma questo vale per qualunque accessorio, oggetto di arredamento, casseruola da cucina, mestolo, mattarello e via dicendo. Insomma, si sta cominciando a pensare che esiste un flusso importante di pubblicità che passa attraverso una non assoluta tassazione. Quindi il governo, alla ricerca disperata di mettere le mani su un altro po' di soldi, vorrà tassare anche gli influencer. Questo naturalmente crea dei problemi, perché poi alla fine ridurrà i loro budget, renderà più difficile la loro libera circolazione. Ma mentre questo accade, i poveracci che ogni mattina si fanno un selfie davanti allo specchio per far vedere la camicettina comperata al mercatino, le ciabattine di plastica, il rossettino preso nella bancarella, beh, questi cosa fanno? Come si organizzano? Qual è la loro maniera di essere e di conquistare questa terra sconfinata che sembra improvvisamente vuota da ogni tipo di vincolo? Beh, su questo si è interrogato un paio di persone, uno l'abbiamo già avuto recentemente ai nostri microfoni, e hanno cercato di tracciare innanzitutto un censimento, una tipologia, una suddivisione per categorie di quelli che sono i tipi da social, le facce da social, che poi in realtà corrispondono a una fetta importante dell'umanità. È come se noi avessimo due personalità, una che è quella che conoscono le persone che ci frequentano, le persone che con noi hanno un'attitudine, una familiarità, come siamo fatti, come ci muoviamo, quello che diciamo, come simuliamo, e l'altra è quella che ci porta ad entrare necessariamente in delle categorie quando noi ci rappresentiamo attraverso i social. Massimo Arcangeli, buongiorno. Buongiorno. Allora, Massimo Arcangeli è un linguista, un critico letterario, sociologo della comunicazione, ordinario di linguistica italiana all'Università di Cagliari, ha appena pubblicato un libro scritto insieme a Valentino Selis, Faccia da social, nazi, webeti, pornogastrici, altri specie su Facebook, edito da Castelvecchi. Noi abbiamo sentito poco tempo fa sul libro Sul fronte del porno, il sesso occidentale, cultura, lingua, rappresentazione dell'eros e via dicendo. Comunque sia, lei è rimasto sempre nel suo ambito di studio, perché in realtà la lussuria della propria rappresentazione sui social è qualcosa che assomiglia a una soddisfazione attraverso passati arcaici canali, più o meno? Sì, sì, ci sono moltissimi punti di convergenza, basterebbe pensare soltanto a una delle categorie che abbiamo individuato proprio per questo volumetto che abbiamo intitolato Faccia da social, cioè il self-made man. Il self-made man è chi ha puntato costantemente su di sé non solo il riflettore, ma tutto l'universo mondo che può tirarsi dietro, quindi è chi si fa i selfie, ma anche chi pensa di poter gestire il proprio ombelico perché sia il soggetto, non l'oggetto di rappresentazione. Quindi è ovvio che tutto questo si porta dietro anche un'esibizione del corpo, talvolta con tanto di attributi, salvo che non vengano censurati, che è l'altra faccia della medaglia. Però ci si accorge a un certo punto di avere un valore di mercato insospettabile. Io seguo fra i miei contatti su Instagram, c'è una signorina che tutte le mattine fa la stessa foto nella stessa posa davanti allo stesso specchio con lo stesso telefonino, tutti i giorni ne manda una, cambia il tipo di ciabatta, la scarpa invernale, la maglietta, ma mai prima avrebbe avuto l'occasione comunque di crearsi una sorta di galleria personale su delle non doti, non qualità, non eccellenze, che comunque sia ha creato una reiterazione che me la fa ricordare rispetto alle decine di migliaia di persone che magari mi seguo o mi seguono nei social network. Sì, questo è anche un altro aspetto secondo me centrale. Sappiamo che il mondo digitale è un mondo vischioso, il mondo dei social è ancora di più, ma è un mondo che ci condiziona, che ci ingloba, che ci trasforma e che incide sull'immaginario collettivo. In molti casi, talvolta più di quanto non riescano a fare i giornali, Facebook è diventato un grande collettore, un grande nodo collettore, attraverso il quale ormai vengono convogliate un'infinità di cose. Quindi è evidente che il successo dei social non solo ci condiziona, ma condiziona anche quello che siamo a livello professionale, per cui oggi moltissimi, non a caso una delle categorie che abbiamo individuato è quella del promoter, investono su Facebook anche in chiave pubblicitaria o semplicemente per diffondere o tutelare la propria immagine. Allora, con Massimo Arcangeli, tra un istante, dopo la pausa, noi cercheremo per quanto possibile di classificare tutte le velleità, velleità che molte hanno avuto anche una ragione d'esistere, perché se oggi il governo deve mettere mano sulle persone che fatturano impropriamente, al nero, nascostamente, occultamente, sul fatto che loro sanno ben rappresentarsi, sono delle stampelle in carne umana sufficientemente convincenti perché qualcuno ci possa appoggiare dei prodotti, evidentemente esiste una strada di uscita, anche se l'unica strada di uscita che possa permettere di dare un senso di profitto a questa esposizione personale quotidiana rischia di essere miseramente bloccata o perlomeno regolamentata dal fisco. 800240024, quale faccia da social voi siete, secondo almeno il vostro giudizio? Tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Melog, cronache meridiane. Vergogna, vergogna, buonasera, vergogna. Morandi, bastardo. No, buonasera. Condividi, scusi. condividi. Cosa ha fatto Gianni Morandi? Ma no, stia buono. Ho postato una foto di lui che raccoglie le fragole. E quindi? Adesso glielo faccio vedere io, sta pezza di merda. No, ma non scriva niente. Pure. Ma e chi è allergico alle fragole, non ci pensi? Ma come, non è colpa sua, non scriva. E chi non ha le dita per raccoglierle? Vergognati. Ma scusi, non è un po' esagerato adesso, condividi, scusi. Condividi. Mi guardi. Bastardo, ti ho beccato. Il mondo. Chi? Ma vaffanculo, il mondo deve sapere. Con chi ce l'ha, scusi? Guardi di qua. Con un consigliere comunale di Asti. Una merda, uno schifo. Perché? Ha messo una foto di lui che dona il sangue. Vabbè, guardi che donare il sangue è una cosa buona, non scherzo. È facile donare il sangue per un politico. Cosa c'è? Io, che sono un cittadino comune, quando dono il sangue non lo sbandiera ai 420. Vabbè, insomma, che lei è andato a donare il sangue. Napalm 51 è ormai una categoria resa celebre, immortalata, entrata ormai negli archivi grazie appunto al personaggio di Crozza. Ma prima che Crozza lo definisse come personaggio televisivo, il leone da tastiera era qualcosa di abbastanza indefinito. Vediamo di definire, cominciare invece a capire questa mattina, delle varie tipologie che sono le più presenti nei social. I più presenti e i più visibili sono i più molesti, naturalmente. Massimo Arcangeli, che ho in collegamento, ricordo che è un linguista, un critico letterario, ha appena scritto un libro sulle facce da social, su tutte le categorie delle persone che maggiormente sono rappresentative di quello che, secondo una definizione secondo me limitata, viene chiamato il popolo dei social. Allora, Massimo Arcangeli, partiamo dai leoni da tastiera, che sono quelli che hanno un peso politico comunque, sono quelli che molte volte hanno ormai una notorietà, hanno uno spiccato spirito di fazione, ricadono e riverberano sui giornali quella che è anche la loro presenza nei social. Sì, hanno il loro filo è abbastanza vicino a quello dei molestatori, dei troll o degli hater che ovviamente diffondono odio, però sono leoni o leonesse da tastiera, il che vuol dire che cercano, per quanto riescono, di avere il dominio assoluto sulla foresta virtuale. Questa è la funzione predominante del leone o della leonessa da tastiera. Cercano di intervenire in ogni questione che possa essere discussa, ma sempre dall'alto di una presunta condizione dominante. Quindi è come se riassumessero tratti di molti altri profili, perché come re o regine della foresta li devono rappresentare tutti. Ecco, il loro scopo qual è? Di crearsi una leadership, di avere il privilegio di sentirsi interlocutori in dibattiti a più vasto respiro, ai quali loro non potrebbero naturalmente avere parte se non si muovessero in questa maniera. Ecco, in questo incrociano un po' il profilo dei tuttologi, perché è evidente che devono intervenire o poter intervenire su ogni cosa. Lo fanno talvolta presumendo fin dall'inizio che abbiano una leadership, anche se molti non gliela riconoscono, quindi insistono a comportarsi da leoni o da leonesse perché presumono che questa leadership ce l'abbiano già. E comunque investono su se stessi o su se stesse per conservarla e aumentarla. Per cui devono essere attenti, ecco questa è la riflessione centrale, a tutte le tipologie possibili di profili che siano presenti su Facebook. Li devono rappresentare un po' tutti, altrimenti perdono il dominio, dicevo, sulla foresta virtuale. Quindi un po' sono tuttologi, un po' sono complottisti, un po' sono ovviamente tutti i profili che vediamo più o meno ricorrere su Facebook o sui social. Ma il termine Vevet in realtà l'aveva inventato Enrico Mentana, che anche lui ogni tanto entra, esce, fa l'offeso, si cancella, poi si rimette, ma fa parte, diciamo, di una fetta intermedia del personaggio, ma è già baciato da una notorietà televisiva, quindi old mediale, ma allo stesso tempo che riesce comunque a creare notizia, in quanto lui è un personaggio noto, anche se dice qualunque cosa nei social, ha subito il beneficio della sua visibilità. E lui ha coniato questo termine, il Webet, se no sarebbe l'Ebet che sta in rete, che sono quelli che in sintesi dicono qualcosa che a lui non sta bene. Sì, il Webet è un esponente di una più ampia categoria che comprende anche gli utonti, che sono un po' più webeti dei webeti, o i newbie, che sono gli inesperti del web, gli ingenui, che fanno magari domande banali su questioni su cui tutti più o meno siamo avvertiti se navighiamo su internet. E la cosa ovviamente interessante è che questi profili, che abbiamo definito complessivamente degli svegli su Facebook o su altri social, sono molto più incisivi di quanto si pensi. E non per dire che tutto ciò che circola in rete è frutto di ignoranza, ma perché in molti casi la rete costringe un po' a rimanere in superficie, quindi se si può approfondire non lo si fa, talvolta non lo si vuole fare, e quindi anche talvolta le persone più intelligenti si comportano in rete da webeti. Allora, sentiamo un attimo i primi ascoltatori, 800240024, quello che mi piacerebbe capire questa mattina è se vi siete mai posti il problema che anche voi siete classificabili. Ma è classificabile anche quello che la mattina dice buongiornissimo caffè o fa pulizia contatti, che è l'anziano, il pensionato digitale che scopre questa meraviglia di questo mondo che immagina pieno di amici e rimane male e poi si trova persone false. Massimiliano da Roma. No, Massimiliano, con che sta parlando? Col megafono? Pronto? Io non sono Massimiliano, io sono Giuliano. Ah, Giuliano, vabbè, è la stessa cosa. Allora, c'è sempre l'anno in mezzo, dai, la parte finale è la stessa. Tenendo conto che comunque non abbiamo scoperto tutto sul mondo, c'è anche un mondo diciamo invisibile della trasmissione del pensiero, della potenza, della possibilità di dare qualcosa. Io mi sento... Ma trasmissione del pensiero in che senso? Di telepatia? Io mi sento un uomo social, sì. Anche non avendo gli strumenti per esprimerlo. Perché che strumento le manca, scusi? No, lo strumento sono i mezzi di trasmettere tra un mezzo e l'altro. Ah, basta un telefono, pensiero, non ha un telefono, un scusi. Un pensiero scritto. Perché lei le manca lo smartphone, scusi, non c'è un telefono, ce l'ha mezzo mondo, ce l'ha tutto. Adesso in questo momento mi sto comportando come un uomo social. No, no, sta rispondendo una telefonata, come un umarel che risponde, solo per questo. Questo siamo perfettamente d'accordo, semplificando. Però il concetto, quello che io intendo è... Io sono per esempio andato a finire su YouTube quando non sapevo neanche che YouTube esisteva. E come ha fatto a finire? mi sono trovato in una piazza, stavano facendo uno stage e bisognava dire delle parole e poi loro mandavano su YouTube. Dei miei amici, avendolo visto poi alla fine, mi hanno comunicato che era uscito fuori. Fermolante, io... non si muova. Allora, Massimo Arcangelo, usiamo come cavia il nostro amico ci ha chiamato. Il nostro amico mi sembra aver capito che è una persona che ancora ha una concezione territoriale abbastanza arcaica, antiquata, approssimativa, cosa significa essere social. Sono entrato in YouTube senza nemmeno saperlo, quindi non ha nessun atto volontario, ma diciamo è classificabile una delle categorie che l'ha individuato questo signore. Sì, un po' è antenato, ovviamente. Molto perché, antenato. Perché, un po' è antenato perché da quello che ho sentito usa strumenti vecchi per affacciarsi sul nuovo, però gli antenati, e questa è un'altra cosa abbastanza carina di una ricerca che continua peraltro, spesso si comportano proprio così, cioè come si immaginano pronipoti, si immaginano promotori, si immaginano innovatori, si immaginano in qualche modo anche visionari, quindi è come se l'antenato nel momento in cui entrasse in contatto col mondo social presumesse di potersi portare dietro tutto quello che sa, anche di un sapere antico, perché sa che già tutto quello che vedrà è più o meno lì a disposizione. Ma scusi Arcangelo, quindi... sono quelli che dicono ho fatto l'università della vita, nello Stato metto, quando mette titolo di studio, l'università della vita, ecco, portano allo... ma sono i vetero, sono i cinquantenni su internet, su Facebook, che sono ormai diventata è una categoria su cui si creano sottositi e gruppi a ridere e a scherzare, a dirsi caffè col K la mattina, buongiornissimo, queste cose qua. Sono, sì, diciamo, categorie in via di estinzione queste. Beh, sono categorie in via di estinzione, ma fino a un certo punto, perché c'è anche un certo universo snob che ancora al mondo social non si avvicina e che in molti casi è formato da antenati, che si avvicina sempre di più, si avvicinerà sempre di più, quindi io presumo che questa categoria sarà ancora ben rappresentata almeno nei prossimi 5-6 anni. Allora le dico alcune categorie, secondo la mia esperienza, lei poi me le classifica, diciamo, le incasella in quello che è il suo studio, che è uno studio scientifico. Quelli che dicono, ah, questo Facebook non ha ancora capito come funziona, capito? E intanto ci stanno. Oppure quelli che mandano messaggi terrificanti, attenzione, ci tengo la mia privacy, sottoscrivete questa sorta di documento, se no Facebook vi ruba le vostre foto e la vostra identità. Ecco, questi chi sono? Questi sono i complottisti, sono quelli che pensano che tutto il mondo quasi sia in continua in continuo allarme, no? Quindi che ognuno possa complottare contro di lui o contro di lei, quindi possono ovviamente lanciare i loro allarmi a difesa della privacy, possono scrivere post contro la vaccinazione obbligatoria. Certo, i vaccini hanno dato sulle scene chimiche, un alimento di immaginario, mai l'avremmo potuto credere. Sta girando di tutto sulla medicina, sì, sui vaccini, sulla medicina, sì, alternativa. Sì. La realtà in questo caso ha avuto modo di avere delle declinazioni che mai avrebbe avuto secondo i mezzi tradizionali di scambio del pensiero, di diffusione delle opinioni. Sì, e questa è l'altra faccia della medaglia, perché è evidente che per un verso la rete è democratica, fino a un certo punto è democratica, perché se c'è un social, diciamo il più feudale possibile, l'ho definito così in un libro, è Twitter per esempio, perché Twitter è rigorosamente organizzato proprio in modo feudale, io posso decidere di non seguire nessuno e posso essere seguito da milioni di persone, cosa c'è di più antidemocratico di uno strumento del genere? Però è ovvio che noi comunque attingiamo quotidianamente alla rete, sappiamo che la rete ci offre tantissime possibilità di informarci, di documentarci, di trovare quello che noi vogliamo trovare e chiedere alla rete, però va anche tenuto in considerazione che purtroppo proprio la gran massa di informazioni che finisce in rete non sempre è controllata, e la mancanza di controllo genera ovviamente facilmente la diffusione non solo di false notizie, ma anche di tutta una serie di notizie che sono parzialmente vere e che se non sono false notizie comunque vanno considerate. Ecco, questo è l'argomento, toccheremo fra un istante, devo fare un momento di pausa, però sollecito gli ascoltatori a dare un loro contributo. Non voglio credere che le persone che mi ascoltano in questo momento saranno sicuramente fettando la cipollina, facendo il battuto per il ragù, va bene, ma possibile che, visto che ogni italiano di media ha due smartphone e tutti sono comunque su Facebook, anche soltanto per darsi la ricetta del soffritto, non abbiate qualcosa da immaginare e da dire su quella che è la vostra presenza in rete? Vi rendete conto che anche soltanto quando esponete i vostri figli, quando vi fate vedere con i vostri bambini, quando adesso il trend è mostrare le gambe con lo sfondo marino, le signore e signorine sono appena arrivate al mare, non hanno ancora la possibilità di ostentare in pieno la loro tenuta fisica, quindi si limita a fare delle foto dal ginocchio alla caviglia, che basta andare da un buon pedicure e alla fine si sembra fighe pure così, con lo sfondo del mare. Ecco, queste tipologie in realtà non siete voi che ve le inventate, entrate già in un canale di distribuzione della vostra immagine già percorso, già classificato, già immaginato. 800240024, a tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Tipologie maschili su Facebook. Lo spacciatore di immensità. Foto rigorosamente in bianco e nero. Riga di status copiata e incollata da frammenti di testi di alta letteratura o poesia, ovviamente mai letti, ricercati su Google. Il militante. Immagine elaborata come il manifesto di Obama, o tutto nero, rosso, bianco, viola, a seconda del momento. Segnala video di politici da cui dissente e cerca indignati. Il Provola, detto SWL, Serial Web Lover, va a caccia della donna digitalmente disagiata, mette foto solo in primo piano, con tagli significativi su occhiali scuri. Dal vero, è spesso impresentabile. 800240024, queste erano categorie di esseri umani sui social che tracciammo qualche anno fa. È passata un'eternità, già sono cambiate notevolmente, già è cambiata l'attitudine, è cambiata la maniera di porsi, cambiate le metodologie di rappresentarsi. Nei social c'è una epica rappresentazione dei nostri momenti più infimi, più scellerati, che noi consideriamo epici in quanto fotografati, condivisi e soprattutto sottolineati dal gradimento delle altre persone. Sentiamo Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, salve. L'ascolto. Sì, io non ho Facebook. E fino adesso, diciamo, sono riuscito a resistere. Ho un bambino di 3 anni e mezzo e il problema probabilmente mi si ripresenterà dopo. Volevo sapere, avendo... Ma solo una scelta, è una scelta di astensione volontaria, una sorta di fioretto? No, la mia è una sorta di rifiuto, perché lavoro in un centro commerciale, ho continuamente rapporti brevi con le persone, quindi non ha tempo, sono allora, proprio nauseato diciamo, da tutte quelle che possono essere le conversazioni. Ecco. Quindi lei non ce la fa più di parlare con la gente, cioè per lei il divertimento è starsene da solo, ecco, qualcosa del genere? Beh, sicuramente è da condividere, ma in una maniera umana e non in una maniera, diciamo... Sì. Artificiale, ecco. Quindi lei considera, cioè, come quelli che ci hanno messo tanto tempo prima di comprarsi un telefono cellulare, dicendo non voglio essere schiavo, come quelli che dicono non comprano la televisione, dicono la televisione è meglio un buon libro, è una sorta di atteggiamento negazionista. Ma quelli non mi sento un antenato, ecco, questo è... Beh, un po' lo è, però obiettivamente lei non vive appieno la contemporaneità, perché il mondo si relaziona anche in quella maniera, bisogna imparare a capire che esiste la relazione fisica e sensoriale e quella metafisica attraverso i social. Come la pensa lei, Massimo Arcangelo, ricordo, linguista, autore di Faccia la Social, Nazi, Webity, Pornogastrici, altre specie di Facebook, di tipi su Facebook, Castelvecchi Editore. Come giudica? Come vede, però, le persone che segnalano la loro presenza sono sempre persone che vivono ai margini, come fosse un peccato della carne che nessuno confessa se non dietro il segreto del confessionale. Un po' anche lì siamo tra l'antenato, però anche devo dire che in qualche caso implicava anche un'altra figura che abbiamo cercato di definire, non tra le 12 principali, ma comunque c'è, che il moralista, non perché il signore che abbia sentito sia un moralista, non volevo dire questo, ma perché c'è sempre il senso di una morale che è la propria, che non coincide con quella del mezzo, perché il mezzo sappiamo che o è amorale o immorale in qualche caso, quindi ce ne teniamo distanti perché possiamo pensare che sia pericoloso, che non sia educativo, sia diseducativo e così via. Quindi è una figura un po' a mezzo tra chi un po' snobisticamente si distingue dal mezzo e un po' non vuol starci perché ha una sua morale che non pensa possa convergere con quella dei social. Quindi si attribuisce comunque al social qualcosa di diabolico. Per tanti anni questo è stato attribuito alla letteratura fantastica, poi ai fumetti, poi al cinema di intrattenimento, poi al teatro leggero, poi alla televisione, poi a internet, adesso ai social. C'è sempre stato qualcuno che puntava il dito contro ogni forma di uscita dal rigore del memento mori, qualcosa così? Verissimo, verissimo, perché comunque quando si profila un nuovo mezzo di comunicazione o anche nuovi orizzonti in termini di uso di mezzi di comunicazione, c'è sempre il fenomeno che definiamo demonizzazione. La demonizzazione è in realtà la paura del nuovo in molti casi, ma talvolta restituisce il senso di una distanza, cioè io mi sono costruito quel che sono in tanti tanti anni, magari sono anche un po' avanti negli anni, e non sono disposto a mettere a disposizione quel che so con un mondo nel quale non mi riconosco, e quindi alla fine rimango un po' ai margini, rimango un po' sulle mie, non vengo coinvolto, però se posso offendo o demonizzo il mezzo perché penso che il mezzo sia magari meno intelligente del precedente, non considerando che i mezzi, è ovvio, no, una banalità, ma è così, sono neutri, dipende non dall'uso sono neutro, certo. Però diciamo che anche mettersi in gioco costa sacrificio, costa rischio, e mettersi in gioco anche nella scelleratagine o nell'inconsapevolezza comunque richiede una presa di coscienza, anche se poi è molto limitata quelle di quando la gente cialtroneggia nei social. Sentiamo Luca da Reggio Calabria, buongiorno. Sì, salve, buongiorno dottor Nicoletti. Niente, io stavo ascoltando ovviamente la trasmissione sui social, volevo dire brevemente questo. Secondo me, io dico spesso in giro anche perché mi occupo anche del diritto dell'informatica come avvocato, eccetera, oltre che del diritto di famiglia, c'è una sorta di mezzo tra virgolette di analfabetismo sociale, nel senso inerente all'informatica. Molte volte si adopera nei social network, o spesso, solamente per banalità, per link che sì possono essere interessanti al momento, ma come fossero un McDonald's informatico, cioè prendo la notizia, un parco a tema in cui ognuno può giocare come vuole. Sì, però fino a un certo punto, perché le persone che stanno facendo business ci sono, se il governo pensa di andare a rosicchiare qualcosina dagli influencer che fanno la reclame degli occhiali, delle magliette e dei pantaloncini, vuol dire che qualcuno fa fattura comunque. Questo sicuramente sì, però mi piacerebbe che i social fossero utilizzati maggiormente tipo per creare reti sociali, reti professionali, cioè per esempio parlo nel mio piccolo, nella mia professione, sto cercando piano piano di creare una rete di professionisti, sei avvocato, con psicologi, con assistenti sociali, con qualunque altro professionista possa inerire il mio settore legale per per esempio aiutare minori e donne in un progetto che è quello per esempio contro la violenza oppure all'interno. Ma ci sono dei buoni esempi, qualcuno lo sta facendo, e che se ne parla molto, poco molto, perché molto come al solito non fanno clamore, fa più clamore il tweet del politico, del personaggio dello spettacolo. È morto il povero Paolo Limite, ne abbiamo parlato l'altro giorno, due suoi colleghi hanno fatto dei tweet un po' disattenti e sono stati subito oggetto a loro volta di un'infinità di altri commenti. Non so, Boldi sarà sbagliato, pensava solo che stesse male, tanti auguri, guarisci presto, in realtà era già morto. E su questo comunque è una disattenzione, Boldi non è certo un nativo digitale, può essersi sbagliato, poverino, ma su questo naturalmente si è creato un'esplosione di commenti e naturalmente è diventato notizia, quindi alla fine qualcosa si produce di concreto. Massimo Arcangeli. Sì, volevo partire proprio da questa riflessione sul presunto analfabetismo. Il mezzo è sempre trasversale, questo comprende anche i social, ma ricordiamo un dato importante che è dell'anno scorso, perché l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, ha in un sondaggio, in uno studio, ha restituito in una percentuale del 28% la quota degli italiani di età compresa fra i 16 e i 65 anni che sono appena in grado di leggere parole semplici o frasi brevi. Del resto l'Italia, lo sappiamo, da diverse statistiche europee negli ultimi anni risulta negli ultimi posti in quanto a capacità di lettura, capacità di comprendere anche testi semplicissimi. Quindi è vero che spesso sui social o su internet il fenomeno assume apparentemente almeno diciamo dimensioni più rilevanti, ma non dimentichiamo il fatto che anche la nostra popolazione corrente, social o non social, soffre di questo analfabetismo, che è strutturale ma anche funzionale. Questa è una parola fondamentale. Quando noi ci imbattiamo in una bufala, per esempio, senza verificarne la fonte e non ci informiamo per poterla smentire. Ecco, sull'analfabeta funzionale, che è un personaggio chiave comunque tra quelli che sono più attivi in rete, forse vale la pena di approfondire un po' con il Massimo Arcangeli fra un istante. 800 24 0024, non mi scrivete banalità, i social sono fattore di crisi di coppia, per ricucire ci si cancella dai social. Ma dove sta scritto? Ma che, dove l'avete mai visto gente che per ricucire si cancella dai social? Nasconde il proprio profilo, ne tiene aperti altri, si nasconde, simula, usa un'altra sim, un altro telefono, che dentro non ne esce più. A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. Tipologie femminili su Facebook. La signorina Silvani riesce a simulare procacità allettanti con foto d'antan o particolari di scarpe con tacco, porzioni di abbronzatura, occhi bistrati. Cerca diversivi al tedio impiegatizio. La fugace domestica. Profilo imbandito con foto di lei mamma e angelo del focolare, solo per buttar fumo negli occhi. Sa bene come ci si organizza la fuga fingendo che sia colpa del destino. La depressa deprimente. Solo foto che denunciano la sua assenza. Tramonti, gattini sperduti, scrivania piena di libri. Scrive frasi di status terminale da scongiuro. Vorrebbe essere amata. 800 24 0024. Ricordo che queste definizioni di personaggi da social abbiamo fatte almeno 5 anni fa. Massimo Arcangeli, è cambiato qualcosa? Allora, parliamo degli analfabeti funzionali. No, di quest'ultima definizione della donna, poi torniamo agli analfabeti funzionali. Aspetti che sento poco in questo momento, sì. Perché il... Adesso sento meglio, sì. No, abbiamo fatto una definizione su alcune tipologie di tipo femminile, la sì. Simulazione della foto, che è normale vanità, non c'è niente di male, ma l'elemento della tenerezza, del gattino, in questa ultima fase anche, non so, del macilento bambino del terzo mondo, oppure della vittima da cattiva medicina, della vittima da scechimica, della vittima da rettiliano, insomma c'è un elenco di rappresentazioni della tenerezza che tendono a rafforzare, confortare l'idea che comunque in rete noi abbiamo bisogno di una sorta di catena di solidarietà attorno a noi, sentirci amati, ben voluti, piaciuti anche dal resto del mondo. Esiste ancora questo fenomeno? Sì, esiste e aumenta in modo vertiginoso, perché aumenta il disagio. Quindi con l'aumento del disagio, con l'aumento della sofferenza, con l'aumento del dolore, ovviamente sono sempre più numerose le persone che pensano di poter salvare il mondo. Noi l'abbiamo classificata questa categoria come cuore d'oro, che non è un insulto, perché c'è anche chi ovviamente è davvero un cuore d'oro. Talvolta c'è chi invece nasconde dietro l'apparenza di un cuore d'oro commenti o complimenti interessati o smilati. Perché? Perché evidentemente aumentano il numero di like che si possono ottenere. Quindi è una categoria amplissima dove ci sono persone che sinceramente pensano di sentirsi investite di un compito, chiamiamolo anche di impegno, e altre invece che giocano un po' con questa categoria. Quindi come spesso capita nei social, in casi del genere siamo di fronte a grandi contenitori all'interno dei quali poi possiamo distinguere le sottocategorie che eventualmente possiamo individuare. Ma sbaglio un po', è calato l'elemento seduttivo? Quando nacquero i social venivano indicati come una sorta del peggior scardinatore delle virtù di coppia, delle virtù familiari, delle virtù individuali. Oggi mi sembrano un po' desessualizzati i social, è uscita un po' questa, non c'è più questa cosa qui. La seduzione passa attraverso mezzi molto più precisi, ci sono le app, se uno vuole raccattare carne umana se la va a raccattare con le app specializzate, non perde tempo a mandarsi le roselline e i gattini su Facebook. Verissima questa cosa, per questo non l'abbiamo catalogata questa categoria, un po' perché Facebook censura, soprattutto negli ultimi tempi, e talvolta lo fa anche in modo comico, ingenuo, però censura tutto ciò che possa suggerire in modo troppo esplicito richiami erotici o sessuali, un po' perché, per il motivo che diceva lei senz'altro, e anche un po' perché la sessualità oggi si trova in forme periferiche, no? Noi abbiamo definito non a caso una delle 12 categorie individuate come quella dei pornogastrici, cioè persone che un po' simpaticamente investono sul cibo come se facesse un po' da surrogato erotico, e qui esibiscono i piatti più belli possibili, perché è come se con quei piatti tutto sommato copulassero e come se invitassero altri a copulare. Quindi quando la mattina uno comincia dalla mattina col cappuccino e il cornetto e finisce la sera con il cocktail di Scampi, che è una cosa molto anni 80, devo dire onestamente, ecco, vuol dire che ogni giorno è come se mettesse sul piatto la propria carnale disponibilità? Beh sì, un po', perché i legami tra sesso e cibo sono antichissimi, quindi valgono a livello archetipico ancora oggi. È un po' perché effettivamente un bel impiattamento o comunque l'esibizione di un bel piatto suggerisce quel gusto che è anche segreto, tanto quanto può essere segreto l'erotismo, che è anche un invito ad assaggiarlo anche se non possiamo farlo. Quindi è una categoria che abbiamo definito così, ma perché era già stata individuata quella dei pornogastrici, ci sembrava che questa intelligente mescolanza di pornografia e gastronomia potesse risultare efficace per una descrizione. C'è anche da dire che poi l'iperfrequentazione ormai di Facebook e dei social network rende difficile il mantenimento della privacy. Ci sono persone che passano le giornate a guardare i like che tu metti nei profili degli altri, e se soltanto si accorgono che te hai messo un gradimento alla foto di una persona, al commento di una persona, subito si crea l'ipotesi di intrallazzo. Quindi in realtà è un po' difficile ormai intrallazzare attraverso i social network. Antonio da Siracusa, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Buongiorno. Volevo intervenire su questa storia dei social network. Io penso che i social network siano quel mondo virtuale dove ci rappresentiamo come vorremmo essere nella vita reale. Però, perché come diceva lei prima, magari una donna basta una buona pedicure, una buona estetista, si fa la fotografia con lo sfondo del mare, si prende soltanto la caviglia e i piedi, certo. Sembra magari una figa. Beh, anche gli uomini smettono gli occhiali scuri, smettono di profilo con la barbetta che non si vede niente, fanno vedere le stempiature, gonfiano il bicipite e fanno vedere solo quel pezzetto. Mai visto un uomo si inquadra la pancia, a meno che non sia uno che fa palestra in maniera strenua. Però il bello poi di questo discorso del mondo virtuale dove ci rappresentiamo in un modo diverso, forse in un modo esagerato, da sogno, quello che vorremmo essere magari, però il bello è che poi a un certo punto ci sono certi personaggi che grazie ai follower, ai seguaci, ai like che hanno ottenuto diventano veramente poi tra virgolette famosi, perché poi vengono chiamati nelle trasmissioni televisive, vengono chiamati in radio, perché è un lavoro anche quello, vuol dire che sono ben impegnati. Se uno riesce a sfondare il muro e entrare nel mainstream della narrazione del quotidiano, vuol dire che ci ha saputo fare. Molta gente, sono stati opinionisti, sotto c'è scritto addirittura blogger, influencer su Facebook, persona che twitta, ma è la stessa cosa. Guardi che ci sono persone che con un tweet raggiungono più pubblico di quanto un pezzo in prima pagina in un quotidiano nazionale. Abbiamo Alessandro da Roma. Antonio, Alessandro da Roma, sì, Alessandro, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Sì, l'ascolto. La riflessione che io volevo fare sull'argomento è un po', diciamo, antropologica. È in viva voce, si capisce pochissimo. Però. Sì, un attimo, scusi. La riflessione che dicevo appunto che volevo fare era più di tipo sociologica. Sì, ma ci abbiamo già in studio il sociologo, la faccia sulla sua esperienza personale. Sì. Guardi, io sono uno psicologo di professione e la mia considerazione è questa. I social hanno aperto un mondo dove dovrebbero essere social dal punto di vista che dovrebbero avere una connotazione molto collettiva e quindi di mettere in contatto molte persone. In realtà quello che penso è che i social siano un punto di arrivo di un indirizzo sociologico, di un punto di vista. Vabbè, la fa un po' complicata, penso la sintesi sia questa: in realtà i social non è che noi vogliamo tante persone perché li vogliamo bene, vogliamo divorare tante persone perché abbiamo fame di prossimo e di gente. I social ci permettono, per quanto possibile, di divorare, ogni tanto anche di essere divorati. Alla prossima.